tristezza sprofonda nelle paludi della realtà, incarnandosi nella fobia di essere omosessuale dichiarata, inceppando fra i fili del percorso di un'intera vita, recitando meglio di un'attrice la sua falsa eterosessualità, ponendosi mille domande se lo venisse a scoprire mamma e papà. Allora l'umore cade in picchiata, più potente di una cascata, così forte da guastarsi ogni giornata, stando in quel letto sentendosi rovinata, nessuna spalla su cui mettere la propria testa. Tutti gli amici l'abbandonano quando scoprono che è diversa, diversa per i loro occhi, vorrebbe tornare indietro e si sente persa, strappando ogni pagina vecchia per poi prendere una nuova rincorsa, sognando di planare e atterrare in un pianeta perfetto, ma quando apre gli occhi ancora nel suo solito letto, esce e cerca di approcciarsi con qualcuno, innanzi a lei si solleva un muro, non si sente più al sicuro. Omofobo, tieniti distante, altrimenti ci vado giù pesante. Sono già in rap e non mi sono mai rispecchiato, ma un omosessuale l'ho sempre rispettato. Attendo, capisco cosa nel tuo cervello malato. Sono etero anch'io, ma un uomo non l'ho mai picchiato. Sono cristiano e rispetto l'intero mondo, anche se grazie a quelli come te ma a fondo. Parla tanto per avere qualche sacrosanto diritto all'uguaglianza, parlare di vivere e lasciar vivere non è abbastanza, capisci? Questi omosessuali sono come pesci che sguazzano, scappano da squali che li mangiano, omofobi irritati come meduse che per toccare uomini trovano mille scuse. La superiorità non si guadagna picchiando, la superiorità la si guadagna aiutando. Gli omosessuali vivono boccheggiando con la speranza di esserci domani. Ora Laura mette un fiore sulla tomba della tua ex ragazza, fra le mani ha una bandiera colorata e cerca giustizia in una piazza, come se non bastasse un cameraman la ripresa in faccia, suo padre la vede, la chiama e la minaccia, graffiti di disperazione sulle braccia, abbandonata a questo triste mondo come cazzo. Tieniti distante, altrimenti ci vado giù pesante, sono già in rap e non mi sono mai rispecchiato, ma un omosessuale l'ho sempre rispettato. Attento, capisco cosa hai nel tuo cervello malato, sono etero anch'io, ma un uomo non l'ho mai picchiato, sono cristiano, rispetto l'intero mondo, anche se grazie a quelli come te va a fondo.